Siamo in missione per conto di Dio. Mattino di Luca Telese. Complimenti per la trasmissione. Beh, io seguo voi e Bordino su Radio Radicale. No, e quella è la concorrenza, siamo pazzi. No. È così che si manda a puttana un sistema fiscale. Mancano le visioni, ma il coraggio è la necessità sociale più straordinaria. Noi siamo coerenti e Renzi ci ha rincorso, ha fatto la rincorsina finale. E che ci sono dei rettilinei unici in Friuli, no? E quindi si corre. Papà e la mamma che stanno 20 ore sul telefonino, cioè. Poi è difficile che possano dire goditi il paesaggio. Che cosa ha fatto? Divieto di sosta. La gente ha perso i soldi, ha azzerato i propri risparmi, ma stiamo scherzando. Fidatevi di più di chi vi dice guardiamo i numeri insieme e fatevi venire i dubbi. Oscar Giannino, governatore di Banca Italia. Siamo matti. Ma non la voglio commentare questa frase, non la voglio proprio commentare. Mi pare che ci stiamo sdraiando sul nulla. E io voglio dire, non mi vergogno. Non ci stiamo accorgendo che i neuroni stanno scappando dalle orecchie. Sì, però dovete sentirci tutti i giorni, ragazzi. Popolo dei già svegli, buongiorno, dovete sentirci tutti i giorni. Ieri l'eco di questa bella puntata con l'immagine che vorrei regalare a voi, l'immagine di Renzo Piano che racconta la sua infanzia a Paolo Crepè e dice: oggi questi ragazzi guardano in basso, io salivo sul tetto del mio palazzo e guardavo l'orizzonte. Guardiamo l'orizzonte con Paolo Liguori, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Luca. Allora, è una giornata piena di cose, veramente, dalla politica allo sport. I retroscena del caso Banca Italia sembrano quelli di un dramma shakespeariano. Lo scopriremo insieme, ma subito un primo parere, Paolo, è la notizia del giorno. Su Banca Italia ci sono molte questioni che vanno chiarite. Per quanto riguarda invece lo scontro all'interno del Partito Democratico tra Gentiloni e Renzi, è noioso, è uno scontro che si sta ripetendo da tempo anche sulla fiducia che è stata chiesta soprattutto dal PD per la legge elettorale. C'era uno scontro sotterraneo abbastanza simile. Renzi vuole forzare la mano naturalmente al governo Gentiloni, si è accorto che questo suo ex ministro, oggi Presidente del Consiglio, rischia di soffiargli il posto dopo le elezioni e naturalmente sta facendo una sua campagna elettorale interna, quindi c'è uno scontro nel PD. Ti voglio far notare. Però Visco che oggi traballa, questa è una notizia. Sì, questo è un altro se uno discorso, guarda i giornali. Questo è un altro discorso ed è un discorso parallelo. Chiaramente Renzi ha scelto un tema su cui sa benissimo che ci sono molte cose poco pulite, no? La questione della vigilanza esisteva già prima, era stata sollevata anche per la Consob ai tempi di Banca Etruria, soltanto che è tutto paradossale perché è stata sollevata tutta questa questione ai tempi di Banca Etruria, ma Banca Etruria è una banca nella quale c'è in atto ancora da molto tempo un'indagine, c'è in atto un crack in cui sono coinvolti e coinvolto il padre di uno dei ministri principali del governo Renzi. Quindi di che cosa stiamo parlando? E tra l'altro stiamo parlando di una cosa, e questo lo voglio far notare soprattutto a te e anche naturalmente agli ascoltatori, che il Partito Democratico, che è il principale partito della sinistra italiana, il più grande, oggi alla vigilia di una forte campagna elettorale, di un momento politico importante, discute di banche, non di politica del lavoro, non di politiche sociali. Il tema principale su cui si accapiglia sono le banche, sembrano diventati i banchieri i loro referenti, e di fatti lo sono. Invece il tema sociale oggi che mi colpisce, lo avevamo raccontato perché la notizia è uscita sul giorno, è la vicenda di Marco Noce, comico di Zelig, un tempo fortunato, che si è ridotto a dormire in macchina. Oggi lo ha intervistato il Corriere della Sera ed è abbastanza sconvolgente il ritratto di quest'uomo che è piombato addirittura in depressione dopo una separazione, dopo degli alimenti che non poteva sostenere. È una pagina che leggerò, ma che ci deve far riflettere. Sì, certo, ci sono queste situazioni ormai che si moltiplicano e sono situazioni che ci ritroviamo a un passo da casa nostra, cioè tra persone conosciutissime, e anche meno conosciute, ma comunque che avevano una posizione sociale, che crollano in poco tempo. Cioè basta molto poco oggi per perdere le sicurezze che uno pensava che il ruolo pubblico garantisse per anni. Questo è una cosa che bisogna dire, e bisogna dirlo anche in una maniera certe volte drammatica, come questo caso, ma in maniera comunque generalizzata anche su tutto il tema che riguarda le pensioni. Noi certo. lì scherziamo, ogni 2 o 3 giorni c'è un articolo sui giornali sulle pensioni, ogni 2 o 3 giorni si parla di qualche piccola o grande sopraffazione che l'INPS escogita ai danni dei pensionati, ma ci si dimentica che i pensionati non sono gente che vive di lavoro o di continuo in missione di denaro, ma vive di denaro che si va prosciugando. Allora, Marco Noce è un caso limite perché ha un suo crack personale, ma intanto questo caso limite non è tanto isolato, perché per esempio tutto il discorso su divorzi, separazioni, questo quello è il problema sociale, ogni tanto viene affrontato e poi non si affronta più. Ma lì c'è nell'economia familiare italiana la possibilità di sopportare tante separazioni come quelle che ci sono ogni anno? Poi no. La gente sopravvive? Adesso per Marco Della Noce arriva la serata di solidarietà degli altri comici. La sua frase, la prendo come epigrafe ed entriamo nel fritto misto: ho fatto ridere per 35 anni, oggi nessuno più mi fa sorridere. Fritto misto. Io sono ancora qui contro l'opinione dei miei figli, dei miei manager, dei miei soci, a far sì che in Italia non possano avere il sopravvento queste forze che sono davvero pericolose per tutti gli italiani. Vergogna quello che stai dicendo. Ma non starnazzi, è una vergogna quello che stai dicendo. Tu non devi giustificare sulla violenza. La vergogna. Ma come fai a giustificare il colpo di stato di Mani Pulite? Ma quale cazzo? Il colpo di stato di Mani Pulite? Senta questo. Il colpo di stato di Mani Pulite. Ma da dove viene questo discorso? Ho distrutto io, ho distrutto quelli che hanno rubato. Ma dove cazzo non lo sai? Ma ti scappa pure la parolaccia. Ma la colpa è di noi che abbiamo scomercinati o di noi che hanno abbassato questo paese? Allora, nella giornata televisiva mediatica che non potete perdere, c'è questo scontro fra Antonio Di Pietro e il filosofo Diego Fusaro all'Aria che tira, e il fritto misto inizia da questa incredibile, come dire, questa tensione molto forte, ma era solo l'incipit, l'antipasto. Andiamo a sentire le banche, Toninelli dei 5 Stelle. E la ciliegina sulla torta, Sardone, qual è? Una commissione di inchiesta per le banche che si è creata per colpa del Partito Democratico, diciamo 5 minuti prima della fine della legislatura, con Casini, amico dei banchieri, chiaro, presidente, che incontra ieri informalmente Visco, informalmente, quando Visco deve essere chiamato non in audizione da questa commissione, ma come testimone, con l'obbligo di dire la verità. Ed è tornato Lele Mora, intervistato da Peter Gomez in un nuovo programma, La Confessione, e sentite con quale tono parla del suo vissuto, della sua esperienza e anche della droga. Sono stato accusato di droga, ma di polvere bianca non se n'è mai vista. Forse la polvere che c'era sui mobili. L'ipotesi è che lei ceda a cocaina. Dice non è stata trovata polvere bianca. Certo è che lei trascorre anche 3 mesi in carcere, e la cosa incredibile ai miei occhi è che dopo quei 3 mesi trascorsi in carcere lei spicca al volo. Vero? Sì. Quella pausa, quante cose dentro. Renzi a 8:30, lo abbiamo visto collegato dal suo treno, entrare e difendere la scelta di cui parlava Paolo Liguori. Il Presidente del Consiglio mi ha telefonato nel pomeriggio di martedì per sottolineare come secondo lui questa mozione avesse dei punti da cambiare. E io penso che il segretario del partito di maggioranza cerca sempre di aiutare il Presidente del Consiglio, tant'è vero che l'abbiamo cambiata. Dopodiché possiamo discutere del merito, cioè di che cosa stiamo parlando. E Di Maio, il vicepresidente della Camera, torna ancora sulle polemiche del no alle Olimpiadi di Roma. Io credo che la Formula E dimostri il fatto che noi non siamo quelli del no, però siamo quelli che hanno a cuore le casse del comune. Sentire che c'è un investimento di 10 milioni di euro privato su questo piano e la città che si mette a disposizione con i servizi dimostra che quando gli eventi sono così importanti ma non danneggiano le casse del comune, noi ci siamo sempre. Camilleri sullo Ius Soli, uno degli scrittori più famosi italiani, partecipa alla campagna e torna a parlare del diritto alla cittadinanza. L'altro, porca miseria, non è altro che te stesso che ti guardi allo specchio e ti credi altro come fanno i gatti. Invece l'altro è te stesso. Allora negare lo Ius Soli, gli italiani si dimenticano che milioni di italiani se ne sono andati negli Stati Uniti d'America, emigranti. È un altro litigio, questa volta però nella sostanza interessante, fra Diego Fusaro di nuovo e Migliore, il sottosegretario alla giustizia che difendeva Laura Boldrini. Laura Boldrini, no. Presidenta dittatore, Erasmus obbligatorio per i nostri figli. Vabbè, questo qual è il sito? Libero. Sole 24 libero. Ore. Libero, cioè un noto sito di fake news. Ma non penso si inventino le cose, voglio libero, dire. Fake news. È un quotidiano italiano. È un sito. Cioè, per voi fake news è tutto ciò che non vi piace automaticamente, ciò che contrasta con la vostra narrazione. Ne prendiamo atto. E rieccoci con Paolo Liguori. Quali delle notizie che bollono in pentola ti intriga per un commento lampo? A me piace il fritto misto perché ti fa vedere quante fesserie si dicono in Italia ogni giorno e quante di queste cose sono irrilevanti. Messe in fila una dietro l'altra ti viene l'orticaria. L'orticaria, sì, perché tu pensi che in questo momento le cose che contano nel mondo si stanno decidendo sulla questione della Cina, che non è un paese lontano, ma è un paese vicino a noi ormai quanto gli Stati Uniti dal punto di vista economico, sulle questioni dell'Europa, dove si sta decidendo e non si è deciso nonostante tutto, e questa è la notizia che mi interessa molto oggi, su Dublino, sul Trattato di Dublino, nonostante il Parlamento Europeo abbia dato il via libera, il Consiglio d'Europa ancora non decide e ci resta addosso la questione degli immigrati a noi e alla Grecia in maniera molto pesante. La questione di Malta mi interessa moltissimo, moltissimo, e se ne parla pochissimo in Italia in rapporto a quanto conta. Perché la questione di Malta? Perché Malta è il nostro Messico, cioè Malta è diventata una zona franca. La tortuga. La tortuga è diventata una cosa impressionante, perché le rotte attraverso le quali dall'Africa all'Europa passa il petrolio clandestino, le armi, la droga e anche gli esseri umani, molto spesso fanno triangolo su Malta, eccetera. Queste sono notizie molto importanti. Hai fatto controinformazione rispetto al fritto misto della televisione dell'informazione. No, sì. Il fritto misto è una bella controinformazione, fai benissimo a raccogliere tutto, cioè fai benissimo a far sentire uno questi rumori di fondo. Ah no, uno dei più grandi scrittori, per esempio, uno dei più grandi scrittori italiani, considerato tale con questa sua voce roca, che è la caratteristica ormai principale ancora di più del suo modo di scrivere, che paragona lo Ius Soli agli Stati Uniti d'America, dove mai gli italiani sono entrati clandestini, ma anzi hanno fatto tutta una procedura, una trafila, e dice la stessa immigrazione. Vuol dire che siamo entrati in un vortice di stupidità in Italia talmente forte che coinvolge perfino quei pochi che in qualche modo hanno uso di scrittura e di lettere. Pensa dove stiamo messi. Però era bella l'immagine di Camilleri, dire, del gatto. Sì, Camilleri fa ridere. L'immagine del gatto che non si riconosce nello specchio è bella. Ma se poi lo mescoli con Renzi, che invece non fa tanto ridere, e ti dice, ho seguito anch'io ieri sera la sua conferenza dal treno, io poi non capisco, visto come stanno le cose con le banche, se il suo treno è un Frecciarossa in executive o un treno di pendolari. Una volta il partito della sinistra era molto forte sui treni dei pendolari. Oggi adesso è un Frecciarossa, dici, molto forte, cattivissimo. Ti devo fermare per la pubblicità, torniamo subito dopo con i Già Svegli e con Paolo Liguori. facciamo un avvertimento sindacale, è immorale alzarsi a quest'ora. Mattino. I già svegli. Sono sveglio perché sto andando a lavorare, ma sono sveglio e incazzato perché dopo aver letto la notizia che all'omicida stradale di Milano sono stati dati 7 anni, gli sono stati concessi il giorno dopo gli arresti domiciliari. Visco licenziato, Mattarella si è incazzato, mentre invece Gentiloni si è calato i pantaloni. Forse crede, pensa e spera di trovare a primavera, anche piccolo e carino, un grazioso strapuntino. Allora, stamattina ero già sveglia perché il mio partner fa i turni e perché penso e spero di essere rimasto incinta stanotte. Io spero sempre che la Corte Costituzionale intervenga prima delle elezioni a dichiarare se una riforma elettorale è costituzionale e legittima o meno, perché sennò veramente ci prendiamo per il culo. Deleuze, la mattina prima di andare in radio, infila 2 dita nella spina della corrente, che mi sembri un po' spento, Eccoci, allora la vostra segreteria telefonica, raccontate tutto, ma soprattutto perché siete già svegli, 02 30 22 44 92 la segreteria, 800 24 00 24 quando chiamerete, fra poco dalle 8 in poi, 349 238 6666 per i vostri sms. Paolo, il tuo ciclo biologico, come ti svegli, quando e perché? Io mi sveglio sempre a quest'ora, la mattina, presto, insomma, anche prima di quest'ora, perché come te, tra le varie attività faccio anche la radio, ho i notiziari, la mia redazione cura dei notiziari radio su alcune radio e anche insomma radio importanti. Certo. Cosa si vede? Qual è il vantaggio competitivo di svegliarsi presto? Il vantaggio competitivo lo sai benissimo da quando lo fai, cioè dalla mattina presto si vede tutto quello che tu metti nel fetto misto, tutto quello che c'è sui giornali, si vede bene tutto quello che certamente proseguirà durante la giornata. Se poi ci metti un pizzico di analisi, senti 2 commenti da qualche parte, li trovi sempre, incominci a lavorare secondo me con le idee molto chiare, altrimenti sei schiacciato, se non cominci presto, sei schiacciato dalle notizie che nella notte ti arrivano dall'est e dall'ovest, dagli Stati Uniti e dall'est, perché più avanti e gli Stati Uniti sono più indietro, ti danno quelle della notte, naturalmente, e sei schiacciato da quelle notizie e non ti muovi, perché continui sempre con Trump, e continui con Trump, e continui con Trump, come se fosse una cosa importante, diciamo, tutto il gossip della vicenda Trump. E invece se tu la mattina sei sveglio presto, vedi tante cose di cronaca italiana, veri fatti, non soltanto le solite 10 notizie su cui ci si rincorre tutto il giorno, ma come hai visto te quello di Noce, ma ce ne sono tutti i giorni, tantissime, che le puoi, hai il tempo in quelle ore, in quelle 2 ore la mattina, prima delle 8:30, le 9, hai il tempo di mettere a punto la giornata. Certo, questo per noi, il lavoro è importantissimo, svegliarsi. Questo per noi giornalisti, ma ci sono tanti che si svegliano per andare a lavorare negli ospedali, nelle fabbriche. Succede questo, che per i giornalisti da sempre, da quando ho cominciato io molti anni fa, si pensa che la giornata cominci tardi, non prima delle 9:30-10, perché finisce tardi. Non è vero, la giornata dovrebbe essere ormai divisa in un ciclo continuo, magari a turni, o se ce la fai anche da solo, ma è vero che comincia tardi, ma la parte importante è cominciare presto. Senti, ieri c'era un bellissimo reportage di Formigli da Racca, totalmente distrutta, non so se l'hai visto, era uno scenario incredibile. Alla fine mi sembra che dopo aver scritto chilometri di inchiostro sull'ISIS, i giornali italiani alle volte sono così provinciali che hanno quasi cancellato la notizia perché il dibattito su Banca Italia sembrava più importante. Invece dovremmo festeggiarla che la bandiera nera è stata ammainata. Ecco, lì non si sa se bisogna festeggiare o bisogna pensare in quale altra forma si manifesterà l'ISIS. ci sono tutte e due le questioni aperte, sia la prima che la seconda. Molti mettono l'accento soprattutto sulla seconda, tu l'hai letto, l'hai visto. Sì, sono... dove vanno e dove scappano. Dove certo. vanno, ma soprattutto da dove vengono, perché in realtà a Racca la cosa che mi ha impressionato di più è la questione sollevata dal ministro della difesa francese, che è una donna, che con molta tranquillità ha detto: guardate, fateli uscire anche da Racca questi dell'ISIS, quelli arabi o siriani o iracheni, e consegnateli alle autorità, ma e quelli stranieri ammazzateli sul posto, perché tanto se no tornano da noi. E questa, mamma frase, mia. Questa frase è stata detta in tranquillità, sta sui giornali, l'hanno tutti quanti riportata ma non commentata, nessuno ne ha voluto parlare. Questa è purtroppo un'affermazione che, stai attento, perché nell'ultimo attentato, quello di Marsiglia, la poliziotta francese, l'ultima che ha trovato gli ultimi tre terroristi in fuga, ha praticamente applicato questa regola, cioè li ha ammazzati sul posto, perché tanto non ne avevano paura, erano potenziali kamikaze, certo. non sapevano dove metterli, erano irredimibili, come si dice, quindi pensavano di non poterli cambiare, non hanno nessuna intenzione di costruire una Guantanamo loro, francese, oppure... È una sporca guerra in cui non si fanno prigionieri né da una parte né dall'altra, né fra i civili né fra i miliziani. Però ieri... guarda che questa cosa dell'ISIS non si è mai neppure riflettuto abbastanza. Non sono come Al-Qaeda una formazione clandestina strutturata, sono molto spesso mercenari, come si può dire, mastini della guerra al servizio di grandi padroni della guerra. Naturalmente alle spalle ci sono mondi arabi, c'è la guerra tra sunniti e sciiti. Questa guerra, che è una guerra mondiale e che è una guerra religiosa, noi siamo solo il campo di battaglia, quella tra Islam sunnita e Islam sciita, è una guerra che sta assumendo forme diverse, con l'Arabia Saudita che si sposta, con l'Iran che attacca, sono le due grandi forze, e tutte le altre schierate a sostegno. E diciamo che l'Occidente ci ha sempre sguazzato in questa cosa, certo. provendendo per l'uno o per l'altro, per l'uno o per l'altro. Quindi l'ISIS non perde a Raqqa, l'ISIS cambia forma. Cambia forma, questo è interessante. In due secondi, perché incombe il giornale radio, sì. Renzi, questo azzardo, questo duello con Gentiloni, lo vince o lo perde? Renzi, secondo me, l'ha fatto quando già si sentiva perdente, è stata una riscossa, un tentativo di riscossa, di riscatto. Gentiloni ha alle spalle l'appoggio del Quirinale, e quindi questo non è poco. E non è poco, no, perché il Quirinale è sempre garante di quello che succederà. Poi, per chiudere, tu l'hai detto all'inizio e quindi lo ridiciamo alla fine, da tutta questa vicenda, in ogni caso, sottolineo, in ogni caso, a parte il metodo, Banca Italia non esce bene, perché non ha fatto bene. Giornale Radio. Il problema della vigilanza esiste, è esistito. Giornale Radio, pubblicità. Grazie a Paolo Di Cuore, ciao. Babbaleo, impara a parlare e impara la grammatica prima di leggere i giornali.